Ave Maria, nuovamente a tutti e ben ritrovati. La settimana scorsa, se ricordate, ci siamo lasciati con San Giovanni Bosco. Oggi riprendiamo il nostro florilegio che ci porta anche questa sera in mezzo a nomi e a santi di grosso calibro, a cui è opportuno cedere immediatamente la parola, salvo poi, come sempre, riservarmi di fare qualche piccola glossa e commento catechetico ad alcune loro affermazioni. Allora, cominciamo subito con una santa molto conosciuta, tra l'altro divenuta in tempi non molto lontani dottore della Chiesa, che è Santa Teresa del Bambino Gesù, la terza donna diventata dottore della Chiesa, che nella sua autobiografia, parlando di San Giuseppe, fa le seguenti affermazioni. Poi vi dirò su quale porre in maniera particolare l'attenzione, che ritroveremo in un'altra grande santa subito dopo e su cui poi mi permetterò di soffermarmi qualche istante. Scrive Santa Teresina: pregai San Giuseppe di essere il mio custode. Ecco l'affermazione. Fin dall'infanzia avevo provato per lui una devozione che si confondeva col mio amore alla Santissima Vergine. Una devozione, ripeto, che si confondeva col mio amore alla Santissima Vergine. Così intrapresi senza paura il mio lungo viaggio. Andavo così ben protetta che mi sembrava impossibile avere paura. Quindi questa grande santa riscopre in San Giuseppe una funzione fondamentale, che è quella del custode e del protettore. Funzioni che, come sappiamo, San Giuseppe ha svolto egregiamente nella Sacra Famiglia, perché è stato realmente custode e protettore di Gesù, perché è stato grazie al suo intervento che Gesù è stato realmente protetto, scusate, difeso fin dalla sua infanzia e ha potuto giungere all'età adulta, pronto a compiere la sua missione. Ecco, però c'è questo particolare, una devozione che si confonde con quella di Maria Santissima. Ecco, andiamo adesso a sentire cosa scriveva pochi anni prima, perché sono quasi, non dico proprio contemporanee, ma partita una e ecco, ha cominciato a operare l'altra, che è Santa Bernadette Soubirous, anche lei francese, come Santa Teresina. E tutti sanno che Santa Bernadette è la veggente della Vergine a Lourdes, per lezione del 1858, e oltre alla Madonna era molto devota a San Giuseppe. Quando perse il papà nel 1870, ella scelse San Giuseppe come suo genitore terreno, quindi lo nominò sostituto del padre. Poi vedremo. Un giorno una consorella, sta attenti, la sorprese a pregare una novena alla Vergine davanti a un'immagine del santo e le disse che stava decisamente sbagliando, perché doveva recitare la novena davanti all'immagine della Madonna. Ma lei rispose: la Santissima Vergine e San Giuseppe sono perfettamente d'accordo, e in cielo non ci sono né invidie né gelosie. Prima piccola pausa. Ecco, anzitutto vedete questo piccolo gesto, quindi Santa Bernadette sta facendo una novena alla Madonna davanti all'immagine di San Giuseppe. E vedete come subito ripresa quell'espressione di Santa Teresina, che la devozione alla Madonna si confonde con la devozione a San Giuseppe. Ma io vorrei anche, come dire, aggiungere, così come la devozione alla Madonna si confonde con l'amore a Gesù. E così come l'amore a Gesù, questo ce lo dice anche la Sacra Scrittura, si confonde con l'amore a Dio Padre. Allora, questo dobbiamo tenerlo presente, dobbiamo. Perché mi fermo su questa cosa? Perché a volte si sente chiaramente. Proviamo un attimo a metterci nei panni di questa consorella, sinceramente, no? Chi di noi non avrebbe rimproverato Santa Bernadette dicendole: ma scusa, stai facendo la novena alla Madonna, ti metti davanti all'immagine di San Giuseppe, vai davanti all'immagine della Madonna se stai facendo la novena alla Madonna, scusa, no? Ecco, di un episodio analogo parla San Luigi Maria Monfort. Ecco, nel trattato della vera devozione. dice una cosa che farebbe forse, come dire, sbalzare sulla sedia qualcuno dei nostri tempi, no? Che dice che c'è gente che si stupisce quando trova le persone a pregare davanti all'altare della Madonna piuttosto che davanti al Santissimo Sacramento, cito testualmente, come se si trattasse di due cose diverse. Ripeto, è come se si trattasse di due cose diverse, cioè come se chi, venerando la Madonna, non stesse al tempo stesso per il fatto stesso di venerarla adorando il Figlio e anche l'Eucaristia, che grazie a Maria ha preso corpo e ha preso vita. Allora, certamente è, come dire, necessario certamente un certo ordine, un certo decoro nelle nostre devozioni, no? Però non bisogna cadere in, come dire, in degli atteggiamenti che poi rasentano una specie di fiscalismo un po' pedante, ecco, e controproducente, specialmente quando questi comportamenti vengono posti in essere da persone che hanno una fede molto molto semplice e che non si mettono certamente a cogliere tutte quante queste nostre elucubrazioni teologiche, che a volte sono elucubrazioni teologiche. Ecco, è bellissima questa risposta che dà Santa Bernadette. In cielo non ci sono né invidie né gelosie, e non ci dovrebbero essere, e in cielo non ci sono. Noi la cosa più grande che dovremmo vivere, io vi parlo per esempio da prete, cioè se io come prete so che un mio confratello fa del bene reale alle anime, le porta ad incontrare Gesù, le porta a fare delle buone confessioni, ad essere devote ai sacramenti, a osservare i 10 comandamenti, a fare una vita santa, se sono sposati ad amare il marito, amare i figli, essere aperti alla vita, fare tanti bambini. Ma io mi devo rallegrare di questo fatto qui, non devo pensare, ma sono andati dal mio confratello, non sono venuti da me, che faccio queste cose meglio di lui. Non devo assolutamente pensare così. Perché ciò che conta, è sempre la gloria di Dio, cioè la carità, cioè in paradiso, guardate che questo, perdonatemi se vorrei provare a fare un volo angelico su questo concetto, pensate alla Santissima Trinità, cioè c'è gente che non capisce quasi niente della Santissima Trinità, no? Io ricordo però che rimasi sconvolto, quando studiavo teologia, dalla definizione di persona divina che diede San Tommaso d'Aquino, che è una cosa stupenda. Io prego lo Spirito Santo che gli ascoltatori, coloro che sentiranno queste cose qui, gli illumini un attimo la testa. Sapete come definisce San Tommaso le persone divine? Allora, le persone divine noi sappiamo dal Catechismo che Padre, Figlio e Spirito Santo sono perfettamente uguali, senza nessuna distinzione. Vero Dio il Padre, vero Dio il Figlio, vero Dio lo Spirito Santo. Tutto quello che si predica del Padre si può predicare del Figlio e dello Spirito Santo. Se dico il Padre è onnipotente, anche il Figlio e lo Spirito Santo sono onnipotenti, senza nessuna differenza e senza nessuna distinzione, dicono a decine, affermazioni dogmatiche, vincolanti, di concili, di pontefici, non si calcolano, d'accordo? Quindi, qualunque affermazione distinta da questa e differente da questa è assolutamente e inesorabilmente proprio eretica in senso stretto, eh? La Chiesa ha combattuto i primi 6 secoli in maniera molto forte contro varie eresie trinitarie. Allora uno però poi si fa una domanda, dice: ma mamma mia, ma se sono così tutti quanti perfettamente identici l'uno all'altro, cos'è che li distingue? D'accordo? Cos'è che li distingue l'uno dall'altro? Ecco, guardate, San Tommaso d'Aquino dice questo: le persone divine sono, attenti, relazione incredibile, sussistente. Sapete cosa vuol dire? Allora, chi è il padre? Il padre è colui che genera il figlio. Quindi l'identità del padre propria è che lui è tutto per il figlio. Quindi è tutto per lui. Quindi se uno glorifica il padre, cosa fa il padre? Glorifica il figlio, perché dice: questi mi glorificano perché tu li hai redenti. Sto semplificando, perché qualunque cosa arriva al padre, immediatamente per questa relazione sussistente d'amore. Relazione sussistente è diverso dalle relazioni che viviamo noi, perché io sono un essere umano e poi sono in relazione. Ma la prima persona della Santissima Trinità si chiama Padre proprio perché genera il figlio. Quindi nell'atto di generare il figlio è tutto il suo essere ed è tutto per il figlio. Quindi tutto ciò che è lo dà e lo riversa a. E il figlio chi è? Ah, il figlio è tutto per il padre, perché il figlio è colui che è generato. E l'essere del figlio, ma questo Gesù ce l'ha mostrato in tutti i Vangeli, no? Cosa dice sempre in tutti quanti i Vangeli? Io devo fare la volontà del padre, bisogna che il mondo sappia che io amo il padre e faccio tutto quello che mi ha ordinato. Padre glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te, eccetera, eccetera, il Vangelo di Giovanni. Quindi, quando io mi rivolgo al figlio, diciamo, noi dobbiamo fare la preghiera rivolta a Dio Padre, ma se io faccio una lode a Gesù o faccio un atto d'amore a Gesù, immediatamente quello arriva dritto al Padre, quell'atto d'amore. Capite? Perché il figlio è tutto per il Padre. E lo Spirito Santo che spira appunto da quest'amore, da questo darsi totalmente l'un l'altro del Padre e del Figlio, porta tutti e tutto agli altri due da cui procede. Allora, questo vale per tutti i santi. Tu lodi la Madonna, ah, ma la Madonna ti porta immediatamente a Dio, subito, istantaneamente. Tu lodi San Giuseppe ti porta immediatamente alla Madonna o al bambino che hai in braccio. Capite? Perché l'ordine meraviglioso che risplende e si riverbera nei santi è l'ordine della Trinità. D'accordo? Quindi è il non trattenere niente per sé e dare tutto a gloria di Dio. Perché in tante altre circostanze, non so se anche su Radio San Giuseppe, e continuo a dirlo e a straridirlo, ecco, mai esaltiamo o iperinnalziamo le persone umane in quanto umane. Quando vediamo qualcosa di buono in qualcuno, vi prego di farlo se doveste vederlo anche con il sottoscritto, diamo sempre gloria a Dio, non alla persona. Perché la persona di per se stesso, specialmente una persona che come San Giuseppe, condivide oltre che al nulla ontologico che noi siamo, perché tutto quello che noi siamo lo abbiamo ricevuto da Dio. Io anche il fatto che sto parlando adesso, io parlo adesso perché è Dio che mi fa parlare, non è che è Dio che mi fa parlare nel senso che sto, come dire, non pensate che io, perché io pensi che sto ripetendo ipso facto le parole di Dio. Speriamo di dire qualcosa di sensato, ma l'atto del parlare io adesso lo compio perché sono in vita. E sono in vita non soltanto perché il mio cuore batte e il mio cervello, anche se malato un po' d'Alzheimer, funziona, ma perché il Padre Eterno mi sta conservando adesso nell'essere. Perché se lui smettesse di fare questa cosa, io non parlerei e tornerei nel nulla da cui sono stato tratto. Allora, quando noi cominciamo a dire: state attenti, non ti mettere a fare la novena alla Madonna davanti alla statua di San Giuseppe. Noi stiamo prestando la nostra capoccia ai santi, capite? Il nostro modo di pensare a loro, ma loro non sono così, non sono così, ecco. Capite? Perché in un certo senso, come dire, avete visto cosa dice Gesù nel Vangelo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Non vuol dire che io e il Padre siamo la stessa cosa, ma siamo una cosa sola. Così chi ha visto San Giuseppe, scusate, ha visto la Madonna, perché San Giuseppe gli assomiglia tanto alla Madonna, e tutta la vita di San Giuseppe, pur essendo lui un essere, era completamente relativa, ecco, relazione non sussistente perché non è Dio, ma comunque da uomo era completamente diverso a cosa? Servire la sposa. E proteggere e custodire il figlio, questa è la vita di San Giuseppe. Capite? Quindi, ma se uno fa una lode alla Madonna, a San Giuseppe lo fa saltare di gioia, ma se uno fa una lode a Gesù bambino, a San Giuseppe lo fa saltare di doppia gioia. Ma stare attenti che anche Gesù bambino salta di gioia se uno fa una lode a San Giuseppe, perché Gesù bambino non si mette mica, perché sa benissimo che San Giuseppe quella lode gliela, come dire, gliela dirotta ipso facto, d'accordo? Senza neanche che si fermi un istante. Quindi, quando vi dovesse capitare, gentilissimi ascoltatori, che qualcuno vi loda, Non trattenete mai le lodi per voi stessi. Fate sempre un atto interno di adorazione, un gloria al Padre o qualcosa, perché quella lode non spetta a noi. Mai e in nessun caso e per nessun motivo. Perché quella lode spetta a Dio solo, non a noi. Quindi io ho sentito, ogni tanto sento le storie. Non si prega il rosario davanti al Santissimo Sacramento, perché quando uno fa l'adorazione non deve pregare il rosario. Allora, io dico, ma su quale, come dire, testo sacro è scritta un'affermazione di questo genere? Chi l'ha detto una cosa di questo genere? Non posso pregare il rosario davanti al Santissimo Sacramento. Quando in ogni Ave Maria io dico, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Cioè io riconosco, lodando la Madonna, che la Madonna è grande perché è stata eletta da Dio per fare il capolavoro suo, che è stata l'incarnazione del Figlio, e che è proprio frutto proprio del suo seno, che quindi quell'ostia consacrata che io vedo davanti e che sostanzialmente è il corpo di Cristo, sappiamo che Gesù nell'ostia è presente con tutta la sua persona, però è presente tutta la sua persona attraverso la sostanza del corpo in cui si transostanzia l'ostia, no? Certo, adesso lui è vivo, quindi insieme al corpo c'è anche l'anima, c'è anche il sangue, c'è anche la divinità, ma la sostanza in cui viene convertita, quello che prima era la sostanza del pane, è il corpo di Cristo. E da chi l'ha preso il corpo di Cristo? Scusate, la carne Cristo, da chi l'ha presa? La carne Cristo l'ha presa soltanto dalla Madonna. Per cui la Madonna è madre di Cristo, certamente sì, e in un certo senso è madre dell'Eucaristia. Perché non nel senso che sia una sacerdotessa, come i sacerdoti che consacrano l'ostia, ma nel senso che è colei che ha dato quella carne in cui, per il ministero dei sacerdoti, distinto da quello della Madonna, viene convertita la sostanza del pane in corpo di Cristo. Quindi non si può fare il rosario da... Ma chi l'ha detto che non si può fare il rosario da Santissimo Sacramento? Cioè, noi non dobbiamo, io vi prego su questo qui, guardate, più tempo passa, più il sottoscritto si sente, ogni giorno di più, meno ragazzino e un pochino più uomo, no? Mi tornano spesso in mente le parole di San Paolo che diceva, quando ero bambino, pensavo da bambino, parlavo da bambino e ragionavo da bambino. Noi molte volte purtroppo prestiamo anche alle cose sante, anche alle cose serie, tante nostre piccinerie e tante nostre forme verbali e mentali, su cui penso che il nostro Signore ci faccia, come dire, un sorriso di santa compassione, nel senso che sorride dicendo. Però lo dice in senso buono, lui non lo dice in senso dispregiativo come lo diremmo noi, no? Ma guarda questo poverino che cosa sta a pensare e che cosa mi presta traendolo dal suo, come se fosse mio. Però queste cose sono più importanti di quanto uno pensi, perché a volte noi creiamo delle leggi e delle imposizioni o delle forme e a volte in parrocchia, io vi dico da... Litigano tra gruppi, tra cose, tra questioni, per il nulla, d'accordo? No, davanti all'Eucaristia bisogna stare in silenzio, non si deve il rosario. Davanti all'Eucaristia si può stare in silenzio, e si sta benissimo in silenzio davanti all'Eucaristia, anzi, è una delle cose più belle da fare. Davanti all'Eucaristia si può, diciamo, non si può fare la Via Crucis davanti all'Eucaristia, ma chi l'ha detto questo qui che non si può fare la Via Crucis davanti all'Eucaristia? Scusate. Ma la Via Crucis non è altro che la storia di Gesù Cristo crocifisso, ma nell'Eucaristia dice il Concilio di Trento che Gesù è presente nello stato di vittima. Quindi la Santa Messa dove l'Eucaristia è stata fatta era l'innovazione del sacrificio della croce. Quindi perché uno deve, cioè, noi capite, noi abbiamo le nostre idee mentali, ma anche rispettabili, cioè, oppure le nostre sensibilità particolari, rispettabilissime. Cioè, tu ti trovi bene, lodevolissimo, a stare in silenzio davanti all'Eucaristia, ma stacci e di tranquillamente che stare in silenzio davanti all'Eucaristia è cosa favolosa, ma non ti stracciare le vesti se qualcuno, anziché stare in silenzio, qualche volta o anche un po' più di qualche volta, dice il rosario. Oppure fa la Via Cruz, oppure fa un canto di lode, capite? Ecco, vedete come i santi, una delle cose che ci insegnano, a mio modestissimo parere, oggi si parla tanto di apertura, ma l'ho già detto domenica, come se l'unico problema della Chiesa, adesso sapete tutto il problema che è successo lì in Germania, che non ne voglio parlare, la comunione dei divorziati, l'unico problema che c'è nella Chiesa cattolica è se i divorziati possono fare la comunione oppure no, e quindi bisogna essere aperti. Ma l'apertura che vuole il Padre Eterno è ben altra cosa, l'apertura è un fatto mentale, noi dobbiamo essere mentalmente aperti e non rimanere imprigionati o imprigionare il prossimo dentro i nostri rigidi schemi mentali. Non ho nessun problema con. Vi parla uno che lo è stato per anni rinchiuso dentro queste cose. E che per capire ciò di cui vi sto parlando adesso ci è voluta la mano del Padre Eterno. Però dopo che uno ci sbatte un pochino la testa, capisce molto bene tante situazioni. Quindi io penso che queste cose semplicissime, guardate, questa frase di Santa Bernadette, pregava una novena alla Vergine davanti all'immagine del santo e le disse stava sbagliando perché doveva recitare una novena davanti all'immagine della Madonna, ma lei rispose, ma la Santissima Vergine e San Giuseppe sono perfettamente d'accordo. E in cielo non ci sono invidie né gelosie. Come dice tu sei devota alla Madonna, adesso, i fratelli separati protestanti. Ah, la devozione alla Madonna toglie il primato a Gesù Cristo. Toglie il primato a chi? La Madonna fa solo quello che vuole Gesù Cristo, pensa solo quello che pensa Gesù Cristo e non pensa a nient'altro. E tutto quello che ha, che fa, lo riversa tutto a lode di Gesù Cristo. Quindi, quale primato toglie Gesù Cristo? Glielo dà il primato, perché se tu agisci, dice San Luigi Monforte nel Trattato della Vera Devozione, di tua spontanea volontà, inevitabilmente, a causa del peccato originale, un po' di gloria a Dio gliela rubi, perché lo fai per te. Ma se tu le cose le offri tutte quante alla Madonna, la Madonna non ruba niente al Padre Eterno, perché gli dà tutto a lui, non si tiene neanche una virgola per sé. Quindi, quale primato toglierebbe a Gesù Cristo il culto alla Madonna? Però capite, schemi mentali, apparenze, fossilizzazioni. Ecco. Ma guardate che se uno studia la storia della Chiesa e della teologia si sono scannati per questi motivi qua. Guardate, e permettetemi, e quanto si è sbudellato dalle risate alla faccia nostra, mi ci metto anch'io perché io non sono estraneo purtroppo a questi diabolici meccanismi, quante risate si è fatto alla faccia nostra. Messer Satanasso, quante? E quante se ne fa? Allora, andiamo avanti perché scusate se mi sono dilungato, ecco, però mi sembrava opportuno. Un giorno del 1872, sempre Santa Bernardetta, andò a fare una visita in chiesa e disse alle consorelle dell'infermiera: vado a trovare mio padre. Vedete i santi che sono unici, sono mitici. Vostro padre, perché il padre era morto, abbiamo appena sentito prima, no? Dice, sì, non sapete che adesso il mio papà è San Giuseppe? E poi aggiungeva, quando non si può pregare, è bene raccomandarsi a San Giuseppe. Quando la seppellirono il 30 maggio 1879, il suo corpo venne collocato nella cripta sotterranea della cappella di San Giuseppe, nel giardino del convento e non nel cimitero pubblico. Negli atti del processo di beatificazione, una delle religiose ha dichiarato che Bernardetta ripeteva spesso l'invocazione: San Giuseppe, fammi la grazia di amare Gesù e Maria come essi vogliono essere amati. San Giuseppe, prega per me e insegnami a pregare. Quindi questa grande devozione di questa santa anima eletta e privilegiata, perché destinataria delle apparizioni di Lourdes, tra le più grandi apparizioni mariane, sicuramente, insomma, della storia della Chiesa, aveva questa grande devozione a San Giuseppe che, vedete, eccezionalmente fu premiata appunto con la collocazione, scusate, del suo corpo, anziché nel cimitero pubblico, appunto, nella cripta sotterranea della cappella di San Giuseppe, nel giardino del convento. Altra grande santa, Santa Faustina Kowalska, morta a 33 anni, come tutti sappiamo, nata nel 1905 e morta nel 1938, quindi un'altra fuori classe dei primi livelli. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione continua. Interessante questo fatto qui. San Giuseppe stesso gli ha detto di avere una devozione continua. Vedete che, a differenza nostra, i santi possono dire questa cosa senza timore di cadere in mancanza, come dire, di umiltà. Perché? Perché in paradiso, quando si diventa santi e perfettamente uniti a Dio, si può fare una cosa di questo genere, semplicemente per il motivo che si riconosce che se una cosa Dio l'ha stabilita e per sua volontà e per sua grazia Dio l'ha stabilita, questa cosa passa anche attraverso di me, sto prestando, come dire, la mia persona a San Giuseppe. Allora io posso tranquillamente dire ad una persona: devi essere devoto a me, perché non lo dico per farmi incensare in maniera autoreferenziale, ma lo dico nella consapevolezza che io sono un ponte, un tramite per. Questo elemento è assolutamente fondamentale, d'accordo? E non voglio rifare tutto quanto il discorso sui culti e la personalità, però noi, quando abbiamo una relazione, ma con qualunque persona che in qualche modo sia in relazione con Dio, anche con i santi, noi santi non dobbiamo idolatrarli, neanche i santi, perché anche i santi possono essere idolatrati. I santi sono santi perché Dio è santo. I santi possono e devono essere venerati, ma non adorati. I santi possono e devono essere pregati, ma devono essere pregati non come fonti della grazia, ma come intercessori di grazia, come coloro che, stando vicino a Dio ed essendo a Lui particolarmente graditi, facilmente possono ottenere quello che noi difficilmente otterremmo, perché a differenza di loro siamo ancora tanto lontani dalla santità, siamo dei poveri peccatori. Quindi per questo si devono pregare. Chiaramente una persona che sta già nell'altro mondo si può permettere questa licenza. Noi no, però da questo modo di fare possiamo e dobbiamo comprendere che le persone che in qualche modo entrano in contatto con noi, e parlo specialmente, vabbè, adesso parlo di me e dei miei confratelli sacerdoti, se attraverso di noi non incontrano il Signore, abbiamo perso tanto tempo e forse abbiamo fatto anche tanti peccati. Il grande esempio, e concordo con un mio caro confratello sacerdote che tante volte fa ottime prediche su questa materia, deve essere San Giovanni Battista. Egli deve crescere e io diminuire, anzi scomparire dinanzi allo sposo che viene, nella consapevolezza che la sposa appartiene allo sposo. Noi siamo tutti quanti, anche San Giuseppe lo è, e anche la Madonna lo è, e sono sicuro che non si offendono di quello che sto dicendo, amici dello sposo. Anzi, la Madonna si offende meno che tutti, perché la Madonna interpreta questo ruolo nel ruolo assolutamente migliore di tutti in assoluto, perché è l'essere completamente relativa a suo figlio Gesù. Tu dici Maria, dice San Luigi Monfort, e lei fa come eco Gesù. Gesù. E tu dici San Giuseppe, e San Giuseppe fa eco Maria e Gesù, Maria e Gesù, Maria e Gesù. Avete visto l'eco delle montagne, no? Generalmente l'eco, tu dici Leonardo e ti rimanda Leonardo. Ecco, ma se tu dici Maria, l'eco ti rimanda Gesù. E se tu dici Giuseppe, l'eco ti rimanda Gesù e Maria. Maria e Gesù. Gesù e Maria. Maria e Gesù. La stessa cosa vale per ogni santo. I santi, guai se tu ti azzardi a dare loro un culto spropositato, meno che mai quando sono in vita. Che rifiutavano assolutamente ogni forma di piaggeria o di eccessivo culto personale. Allora, San Giuseppe non soltanto gli ha detto di essere devota, continua la lettura, ma gli ha detto di recitare 3 volte al giorno il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria e il Memorare. Memorare è una preghiera particolare, scritta da San Bernardo per la Madonna, ma c'è anche il Memorare a San Giuseppe. Memorare, memorare purissime sponse Virginis Marie o Dulcis Protector Mei San Joseph. Quindi c'è una variante, non so chi lo sa, del memorale, non lo so se Antonio lo recitano qualche volta sul Radio San Giuseppe, io lo so soltanto in latino, purtroppo quello di San Giuseppe, quello della Madonna, so qualcosa anche in italiano, che è una variante di questa splendida preghiera di San Bernardo. Scritta però in chiave giuseppina. E San Giuseppe gli ha proposto questa forma di devozione. 3 volte al giorno il Pater, l'Ave, il Gloria e il Memorare. Poi l'ha guardato con grande cordialità e gli ha fatto conoscere quanto sostiene quest'opera. Sapete che l'opera che Santa Faustina fu chiamata a svolgere da Dio fu l'opera della Divina Misericordia, che adesso diciamo che è stata praticamente quasi compiuta perché passava per fare il dipinto della Divina Misericordia, questo fu fatto subito, il Gesù Misericordioso, poi divulgare la devozione alla Divina Misericordia, con la coroncina alla Divina Misericordia, la novena alla Divina Misericordia dal Venerdì Santo alla prima domenica dopo Pasqua, e poi istituire la festa della Divina Misericordia la prima domenica dopo Pasqua. Diciamo che queste cose, a quasi un secolo di distanza, sono state fatte tutte quante, quindi questi voleri di Dio. Anche grazie all'intercessione di San Giuseppe, che gli ha promesso, continua a leggere col il suo aiuto specialissimo, oltre alla sua protezione, è divenuta realtà. Ecco. Un altro grande santo devotissimo a San Giuseppe, era San José María Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei. Abbiamo un pochino di tempo, io vorrei introdurre quest'uomo. Come dire, forse molti ascoltatori non sanno cosa sia l'Opus Dei. Ci sono molte leggende nere sull'Opus Dei. Chi sono questi dell'Opus Dei? Sono una soppece di massoni ecclesiastici. Sono, perché dopo c'è stato tutto quanto il discorso del Codice da Vinci, di quel filmaccio che un sacco di gente se l'è vista insieme a quell'libraccio. Quindi, poverini, si è diffusa un bel po' di leggenda nera intorno a questa realtà ecclesiale, non si può chiamare movimento. Che cos'è l'Opus Dei? Opus Dei etimologicamente significa opera di Dio. Così il fondatore sentì di chiamare quale opera di Dio? L'opera di Dio che San José María Escrivá si sentì ispirato, come dire, a fondare, cosa che ha fatto. Non era altro che un cammino, sapete che il suo bestseller si chiama appunto Cammino, di santificazione laicale. Come dire, più che laicale, che è un termine un po' ristretto perché poi ci sono anche i sacerdoti che fanno parte dell'Opus Dei, un cammino di santificazione sarebbe meglio dire secolare, ecco, cioè da viversi nel secolo. Quindi con le forme e gli strumenti propri di chi vive nel secolo. Io sono un grande sponsor, non dell'Opus Dei, non voglio certamente fare propaganda, d'accordo, né all'Opus Dei né a nessun movimento ecclesiale, perché io sono un sacerdote diocesano e quindi equidistante da tutte quante queste realtà ecclesiali, approvate dalla Chiesa, vanno tutte quante bene, d'accordo? Però, numero uno, pensate che questo fu fatto nel 1932. C'è molta gente che pensa che la valorizzazione o il tentativo di valorizzazione dei laici venga dal Concilio Vaticano II. Beh, sì e no, perché questi hanno cominciato a porre in essere alcune cose che poi avremmo ritrovato nei documenti conciliari, tipo l'Apostolica Actuositatem, per esempio, fondamentale, appunto sull'apostolato dei laici, l'hanno cominciato a dire 30 anni prima che il concilio cominciasse, e quasi 35 anni prima che il concilio si chiudesse. E chiaramente in San Giuseppe trovano, come dire, in San Giuseppe e un po' nella Sacra Famiglia di Nazareth, diciamo che San José Maria Escrivá ha trovato delle grandissime fonti di ispirazione, perché la vita di San Giuseppe, guardate, era una vita fondamentalmente laica, in senso buono, perché San Giuseppe cosa faceva? Lavorava, faceva lo sposo e faceva il papà. Questo faceva San Giuseppe. Non stava in monastero attenzione, stare in monastero a pregare è attività nobilissima, eccellentissima, capite bene quello che sto dicendo, no? Ecco, però questo ci aveva già provato qualche secolo prima, però senza fare, come dire, un'opera vera e propria, ma utilizzando lo strumento della direzione spirituale e degli scritti, un altro grande santo che era San Francesco di Sal, con la Filotea, scrivendo proprio appunto nella Filotea un manuale, potremmo chiamarlo così, di santificazione per i laici. A mio avviso questo discorso è attualissimo. Perché la santificazione di un laico, fermo restando, e questo in tutti i membri dell'opera, io ho conosciuto qualcuno dell'Opus Dei, ho frequentato qualche ritiro, non mi vergogno affatto a dirlo, quindi so più o meno cosa pensano e cosa fanno. Allora, il discorso è questo qui: una grande vita di preghiera e sacramentale come base per la santificazione per tutti. Quindi messa quotidiana, confessione settimanale, orazione mentale, rosario, eccetera. Quindi 2 o 3 ore al giorno di preghiera bisogna farle. Fatto questo, però, la santificazione avviene, come dice il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, io ci farò a suo tempo un grande incontro di catechismo per adulti, come i laici si santificano vivendo il proprio carisma specifico, che è l'indole secolare. Cosa vuol dire? Vuol dire santificarsi nel mondo e santificare il mondo e le realtà mondane. Cioè, se tu sei un laico, il lavoro non è una cosa che devi fare per portarti alla fine del mese lo stipendio. Il lavoro è il luogo della tua santificazione. Il lavoro lo devi fare fatto bene. Cioè, tu quando lavori, devi lavorare come se stessi lavorando per nostro Signore. Immaginate se tutti gli impiegati dei pubblici uffici lavorassero come stessero occupati, come stessero lavorando per nostro Signore. Che io quando ero giovane entravo negli uffici pubblici, tutti le sanno queste cose qui, no? Stanno le poste e c'è sta una fila che non finisce mai, e c'è sta l'addetta alle poste, qualche volta speriamo che non lo facciano sempre, che se ne sta in giro, fuma, parla col direttore, scherza, gioca, e la gente stanno 50 persone in fila. Ma quello non sta facendo il lavoro per nostro Signore. Perché altrimenti starebbe seduto lì, avrebbe un pochino di misericordia per quelli che stanno in fila, no? Tu lo fai se capisci che il lavoro è la tua santificazione, è perché il lavoro è 8 ore al giorno per le persone che stanno nel mondo, eh? E non è che questo sta fuori dalla santificazione. Poi c'è la famiglia. Se tu ti sei sposato, ma ecco il tuo campo, tu ti santifichi, cioè un gesto d'amore a tua moglie è santità. Vai al fioraglio e compri un mazzo di rose, lo porti a tua moglie, quello è gloria di Dio, capito? Stai a giocare mezz'ora con tuo figlio anziché starti a fare gli affari tuoi, quella è la tua santificazione, quella è la tua ascesi, quella è la tua penitenza, perché ti andrebbe di stare mezz'ora in poltrona a vederti la televisione e tutte le porcherie che fanno in televisione, la chiudi e stai a giocare con tuo figlio, che è la stessa cosa che un monaco o un consacrato, come dire, gli andrebbe di stare 2 ore rilassato e invece 2 ore fa un esercizio penitenziale per la conversione dei peccatori. Sono due cose differenti, capito? Sono due modalità ascetiche differenti. E poi ci stanno gli altri ambiti della vita secolare, no? La politica, per esempio. La politica, i cristiani devono farla la politica e la devono fare pure da cristiani. E non, perdonatemi, non voglio fare politica, ma non sempre sono stati esempi proprio eccellenti quelli che hanno offerto sedicenti cristiani in campo politico. Ora, che succede negli ultimi anni? Avete visto cosa succede in giro nelle parrocchie? Cosa vuol dire promozione dei laici? Promozione dei laici vuol dire, se io divento ministro straordinario della comunione, se io leggo le letture in chiesa, se io sto sull'altare a fare il chierichetto senza camice a servire il prete, se io divento diacono permanente, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cosa sarebbe la promozione dei laici? Cioè che tu, anziché santificare il mondo e santificarti nel mondo, cose che solo tu puoi fare, perché io sono prete, io facevo l'avvocato e non lo posso fare più, c'avevo la fidanzata e non ce l'ho più, e ho fatto pure politica quando ero piccolo e non la posso e non la posso e non la devo fare più, perché io adesso sono diventato prete, non posso e non devo fare quelle cose, ma un laico non deve venire a fare il mezzo prete per sentirsi protagonista della Chiesa, perché tu sei protagonista della Chiesa se ti santifichi nel mondo e se santifichi il mondo. E se vai a raggiungere quelle persone che io direttamente non posso contattare, perché io in tribunale non ci posso andare più, e quel luogo c'ha bisogno del Vangelo, oltre che c'ha bisogno di avvocati onesti, che facciano il loro lavoro con competenza, che osservino le norme morali, che seguano e che agiscano sempre secondo giustizia, eccetera, eccetera. Ecco perché ha preso San José Maria Escrivá, San Giuseppe, proprio come emblema, come dire, ed è il patrono principale dell'Opus Dei. E guardate che anche la Madonna, nella vita, almeno a Nazareth, da quando è uscita dal Tempio, certamente, perché la Madonna c'è stata in monastero e l'ha fatta la monaca di clausura, l'ha fatta per circa 10 anni, secondo la tradizione. Poi però. Ed ecco anche lo splendore immenso della Madonna, perché la Madonna è uscita dal monastero e si è messa a fare la donna di casa con la più assoluta nonchalance. Vedete, non bisogna avere le fissazioni neanche nelle cose sante, perché se Dio vuole che tu stai in monastero, vai in monastero e lì rimani. Ma se Dio vuole che tu fai la mamma di casa, la donna di casa, la sposa di San Giuseppe, la mamma di Gesù e gli cucini da mangiare, eccetera, eccetera. Lo fai tranquillamente perché quella è la gloria di Dio. Non conta quello che fai, conta se quello che fai è la volontà di Dio e come lo fai. Allora, leggo qualcosa di San José Maria Escrivá perché il tempo stringe e concludiamo con lui, no? Quindi abbiamo capito che cos'è un po' l'Opus Dei. L'Opus Dei forma laici anche che non si sposano, e che dedicano tutta quanta la vita alla santificazione del lavoro nel lavoro. E a insegnare alle persone attraverso l'apostolato come ci si santifica nel lavoro, nel mondo e col lavoro. Quindi, questo fondatore dell'Opus Dei dice: fate amicizia con San Giuseppe, troverete Gesù, frequentate Giuseppe e troverete Maria. Vedete le cose che ho detto prima? Nomini San Giuseppe e l'eco è Maria Gesù, che riempì sempre di pace il dolce laboratorio di Nazareth. Dice: pregate per me. Dice San José Maria Escrivá, invocando come intercessori a nostra Madre Maria e San Giuseppe, che nostro Padre e Signore, notate come lo chiamava, perché io sia un sacerdote buono e fedele. Un sacerdote deve fare il sacerdote, capito? L'ho detto in un'altra catechesi, non deve fare il finto laico. I laici vogliono vedere sacerdoti che facciano i sacerdoti. Ho detto quello che deve fare un laico, poi lo riprenderemo se cosa mi riesce a vedo la gente. Cosa deve fare un sacerdote? Tre cose deve fare il sacerdote. Tre. Sacerdote vuol dire sacerdux, sacerdans e sacerdocens. Vuol dire condottiero sacro, colui che insegna le cose sacre e colui che dà le cose sacre. Dare le cose sacre vuol dire amministrare i sacramenti e i sacramentali. Insegnare le cose sacre vuol dire predicare, fare le catechesi, fare le omelie, fare le prediche. E sacro condottiero vuol dire che se ti sono stato donato una parrocchia, la conduci e la pasci secondo Dio. E tutte le anime che incontri dovrai condurle non a te, ma al nostro Signore. Chiuso. Ok? Oltre che chiaramente come si fanno a condurre le anime, non soltanto con le chiacchiere, ma con la preghiera e col sacrificio. Non ci sono altre cose che deve fare un prete. Un prete non deve fare il prete operaio, non deve andare lui in fabbrica, anche se deve essere vicino ai problemi di chi sta in fabbrica, agli operai, eccetera, eccetera. Io ritengo, e chiudo, la prossima volta riprendiamo da José María Escrivá, che uno dei gravissimissimi problemi della Chiesa degli ultimi 40 anni è stato questo qui, che abbiamo tutti quanti smesso di fare il nostro lavoro. I preti non fanno più i preti, i laici non fanno più i laici, sto generalizzando chiaramente, no? Ci sono ovviamente tanti buoni preti e tanti buoni laici, però sono problemi abbastanza diffusi. I frati non fanno più i frati, le suore non fanno più le suore, i monaci non fanno più i monaci e le monache non fanno più le monache. E questo è un disordine totale. La Chiesa così va al collasso, perché un esercito funziona bene se ognuno sta al posto proprio. Così anche una squadra, un'impresa, una squadra di calcio, qualunque cosa. Una squadra di calcio non funziona se il terzino si mette a fare centravanti e viceversa. Una squadra di calcio funziona se ciascuno fa bene e ricopre bene il ruolo dove è stato posto, preoccupandosi di farlo al meglio possibile. Riprenderemo da qui la prossima volta, ma io vi ripeto, mi scaldo un pochino su queste cose, perché a mio modestissimo parere ci stiamo giocando molto su tanta confusione, a volte anche in buona fede, fatta su questi temi. È bene che ciascuno ritorni bene, anche guardando il grande esempio della famiglia di Nazareth, al proprio posto.